Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Scene d'orrore, le stesse dopo ogni attentato, tra i terroristi che brandivano coltelli gridando Allah e i passanti che cercavano solo di mettersi in salvo, questo tassista che con la macchina ha cercato di fermare i killer. Li ho visti, ho cercato di metterli sotto, ha raccontato a una radio britannica, purtroppo non ha fatto in tempo. Le urla la gente che scappa subito dopo l'attentato, sui social le testimonianze di chi ha vissuto quegli 8 minuti di terrore. Qui davanti a un ristorante italiano proprio a London Bridge. I'm terrified. Questo ragazzo invece ha assistito alla fine dell'attacco, ha visto i poliziotti sparare ai terroristi nascosti dietro a un furgone e allora eccoli gli assassini di London Bridge, ormai a terra. Questa mattina, sfogliando i giornali, ho visto un oggetto che primeggia nei titoli di varie notizie di cronaca, che in qualche maniera accomuna in una paura comune, qualcosa che ritorna, qualcosa che sembra appartenere al passato. Questo oggetto è il coltello, ma il coltello, normalmente le persone quando dici coltello pensano al coltello della cucina, quello per tagliare la fettina o la bistecca. Chi ha qualche anno in più, magari un passato campagnolo epico, il coltello è qualcosa che segnava il passaggio a un'età un po' più consapevole, al coltellino. Il coltellino viene regalato al bambino, un coltellino, dalle mie parti lo chiamavano castrapulci, era un coltellino, non tagliava nulla, con due lamettine, però ci dava l'idea, c'avevamo un coltello. Non ci si poteva andare a scuola, ma si andava a scuola. Non si usava mai per offendere un altro compagno, però tutti avevano il loro coltellino. Serviva per fare piccoli lavoretti, scarnificare pezzi di legno, incidere il nome sul banco, era il coltellino. Poi ci sono stati anni truci, anni brutti, in cui la gente ha cominciato a girare col coltello. Anni 70, per metà degli anni 80, c'è chi andava a scuola al liceo col coltello in tasca, per difendersi o per offendere. È ritornato l'uso del coltello. Il coltello è legato naturalmente a un aspetto della società che fa parte della zona nera, la zona limacciosa. Il coltello portato in tasca come oggetto di distinzione appartiene a culture che non sono certo quella più civilizzata. Ci sono ancora amiche mie a certe latitudini che si portano il coltello nella borsetta, perché sì, perché fa fierezza portarsi un bel coltello col manico d'osso, ma non ci farebbero male a una mosca, lo usano per tagliarsi il salamino quando vanno a fare le scampagnate. Però oggi invece di coltelli sentiamo parlare in maniera insistente, non soltanto per l'attentato a Londra in cui il coltello primeggia, questi 3 terroristi cominciano a correre tra la folla brandendo lunghi coltelli da cucina. Il livello zero del terrorismo prevede che non occorra nemmeno procurarsi un armamento. Sono coltelli che chiunque può comprare. Anzi, se uno va alle bancarelle dei ragazzi del Bangladesh qui sotto la radio, sono dei bellissimi coltelli in ceramica, belli da cucina, stupendi, affilatissimi, appuntatissimi, colorati, anche belli a vedersi. Uno se li può tenere in tasca e passare anche sotto un metal detector. È l'arma essenziale per chi ha voglia di far del male. E molti hanno voglia di far del male. Probabilmente aveva molta voglia di far del male al marito, al convivente, l'infermiera di Ferrara, che ha scannato il compagno a coltellate, 3 coltellate a Ferrara ieri l'altro, poi ha telefonato all'amica, l'ho appena fatto. Ha usato un coltello, un'infermiera, una donna ha usato un coltello per ammazzare il marito, per accoltellare il marito. Lo ha colpito a coltellate. Usano il coltello i ragazzi della Roma Bene, nella cronaca di Maria Corbi oggi, che racconta quello che è il dilagare della violenza e quindi il dilagare del coltello. Coltelli, microcarri, rabbia, la peggio gioventù di Roma Nord. L'ultimo episodio è una lite nei luoghi delle movide di questi ragazzini sfaccendati, benestanti, pieni di sé, tronfi, tutti con la loro macchinetta, adesso portano anche il coltello in tasca. E Maria Corbi fa l'esempio degli ultimi episodi di coltello e di lama, che nulla hanno a che fare con le puncicate dei tempi di Rugantino, classica maniera per definire le passatelle, quando si beveva troppo poi finiva sempre a coltellate. Ma questo parliamo di una Roma scomparsa, di una Roma iconografica, quella delle stampe romane. Qui sono ragazze per bene, di famiglie per bene, della meglio cremina delle terrazze romane, e si accoltellano, e racconta Maria Corbi degli episodi e stanno ballando tranquillamente quando due ragazzi sono avvicinati, uno l'ha preso, girato le spalle e l'altro lo accoltellava, poi è caduto a terra trascinandosi una ragazza che sta vicino a lui e via dicendo. Far del male a una persona col coltello non credo sia una cosa facile, è qualcosa di brutale, qualcosa di antico, qualcosa di vecchio. Il terrorista lo fa perché deve uccidere, il terrorista non ha scrupoli, ma quando l'individuo normale prende un coltello per far male a qualcuno è un'operazione che fa vomitare chi a questo non è abituato, chi non ha questa aggressività. Il coltello deve bucare la pelle, farsi strada fra le ossa, tra le viscere, ledere i centri vitali. Il coltello fa schizzare il sangue anche nell'aggressore. Beh, oggi parliamo di coltelli. Il coltello sembra tornato di moda. Beh, noi parliamo di cosa sia oggi il coltello nel nostro immaginario. 800240024. Affilate i vostri coltelli sulla pietra dei marciapiedi. Questo era l'inno dell'SA. Affiliamo i nostri lunghi coltelli sulla pietra dei marciapiedi. E infatti la notte dei lunghi coltelli fu una notte che si scannarono in tanti. Melog. Cronache meridiane. Colpi di pistola in Viale Monza a Milano. Gli agenti della Polizia di Stato intervengono dopo una segnalazione al 112. Un uomo nordafricano, due coltelli in mano, sotto l'effetto di droga. Prima aveva minacciato i presenti, poi ha tentato di colpire gli agenti intervenuti. Uno squilibrato, maneggiando un coltello, voleva spaventare o ferire qualcuno. Prima gli agenti hanno messo in sicurezza la zona in modo tale che i passanti non venissero. Ho fatto una ricerca su YouTube pieno di tutorial di come ci si difende dal coltello, come si usa il coltello, le tecniche del coltello. Ho scoperto che ci sono tantissime scuole di uso del coltello, uso sportivo, uso marziale del coltello. Ci sono combattimenti al coltello fatti in delle palestre, come se fosse un'arte marziale, combattimenti fatti con coltelli finti di sicurezza. Ci sono anche dei combattimenti fatti con coltelli veri. C'è scritto sotto, non imitatelo. Hanno coltelli veri, stanno a dorso nudo, c'è il loro istruttore. I coltelli veri vengono resi parzialmente inoffensivi, sono dei coltelli a serramanico, a scatto, quelli a molletta, il tipico coltello dei film che usa l'assassino, il pugnalatore, il guappo. Vengono legate le lame con della corda in modo che rimanga fuori soltanto un pezzo di punta, piccolo, però può sempre far male. Poi ci sono gli appassionati di combattimento del coltello tipico italiano, si mettono dei costumi, si mettono la coppola e il panciotto come se fossero dei picciotti di mafia di tanti anni fa, ma nemmeno tanti poi in fondo, e combattono e si vede la tecnica perfetta dei picciotti col coltello, si nasconde fra le gambe, si fa roteare, si mette dietro la schiena, si fanno le finte, ci si inginocchia come supereroi mettendo il coltello piantato per terra per disorientare l'avversario. Insomma, sono tante maniere di usare il coltello, quindi il coltello, noi non ce ne eravamo accorti, è già entrato nel nostro immaginario da molto tempo e probabilmente, visto che oggi bisognerà stare attenti a persone che ci accoltellino per strada, evidentemente qualcuno già si sta preparando per una lotta al coltello. Lucio, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Sente? Sì, l'ascolto. Ah, niente, il coltello, innanzitutto non si affronta un avversario col coltello, è preferibile evitare lo scontro. Questo classico, io direi anche un avversario che ti mostra i pugni, se uno è possibile se ne va. Ma lei ha scritto un sms, in famiglia non abbiamo paura dei coltelli, siamo tutti addestrati al combattimento, siamo esperti nell'uso di armi bianche. Mi racconti, mi racconti questa famiglia di esperti di coltelli? Io facevo parte di un reparto d'elite, quindi eravamo addestrati anche a, diciamo, uccidere col coltello. Elite, ma dell'esercito italiano o di altri eserciti? No, italiano. Legione straniera, cos'era? Sì, vabbè. Ma lo sai che ci sono un sacco di legionari che telefonano a questa trasmissione? Anche l'altro giorno me ne è capitato uno. Ero io. Ah, era sempre lei. Ah, beh, lei è un ascoltatore fisso. Va bene, allora, oggi lei ha imparato a usare il coltello perché ha imparato a combattere da legionario. Mentre mia moglie usa abitualmente le spade, la guam, che è una spada che si usa a due mani, e la kiam sono due spade a doppio taglio. Vabbè, armi cinesi, cosa sono? Sono armi vietnamite. Vietnamite. Nostra figlia usa invece il Dao, che è una Sua moglie è vietnamita, l'aveva detto l'altra volta. Sua moglie. Sì. Quindi si è trovata una moglie che già sapesse, diciamo, usare le spade. Sono espertissime nell'uso di armi bianche. Io un po' meno, però loro sono, diciamo, un avversario col coltello. Sembra la famiglia, la famiglia di Kill Bill, comunque, vabbè. Poi siamo la bambina, che c'è anche lei. È come la bambina ha 25 anni. Ah, la bambina cosa fa? Quale arma usa? e lei usa la DAO, è una scimitarra, lei essendo un po' più alta di mia moglie, è piccolina, può usare questa arma che è un po' più pesante. Cioè, in famiglia non litigate mai, penso, fra di voi? Perché... No, siamo dolcissimi fra di noi. Ma vi allenate comunque fra di voi? Sì, loro si allenano, diciamo io mi alleno un po' di più con la box e con altro loro si allenano 10 ore al giorno nelle arti marziali. Vabbè, ma per diventare cosa? Cioè il resto del tempo? No, è semplicemente perché mia moglie era una guerriera e ha addestrato nostra figlia nel... Sì, ma adesso che siete bravissimi a usare sciabole e coltelli, cosa fanno? Per cosa serve questo addestramento? Fine a se stesso? Serve a non essere mai in pericolo, mai essere minacciati da nessuno. Eh sì, ma uno deve portarsi dietro la sciabola, come fa? Mica può girare con la sciabola sua moglie? Beh, la sciabola non può girare, però può usare un patch dagger. Il patch dagger è, se c'è presente, un cavadappi, quindi con l'impugnatura a T. Sì. Invece del cosa avviene del cavadappi... C'è una punta. C'è una lama, a doppio taglio. Ma non credo che sia possibile portarlo... Non è possibile, però. Diciamo, no. è un piccolo coltello che si con un'impugnatura, ecco. Una specie di cavatappi con un coltello, ecco. Che si impugna, che esce fuori dalle nocche, e la nocca ha un prolungamento che è una lama. Cioè, uno dà un pugno come una coltellata. Come una coltellata. E sua moglie li sa usare questi attrezzi? Oh, cavolo. Lei ride, c'è una moglie così non ci dormirei accanto, ma nemmeno pagamento, scusi. A Ferrara ha coltellato il marito, una tranquilla infermiera che trasportava clisteri e cateteri, una moglie che usa sciabole e scimitarre, ma come fa a dormirci vicino? Ci dormo tranquillamente, ci dormo 44 anni, quindi. Ah, quindi ormai è tranquillo. No, che il coltello, questi terroristi usano i coltelli, però sono improvvisati. Siamo veramente gente addestrata. Lei ha osservato qualche filmato, può darmi una sua lettura, visto da esperti dei coltelli. Come mai il terrorista oggi ha ripiegato sul coltello? Perché è di facile reperimento, perché ha molto impatto. Guardi, è di libera vendita. In Italia è solo proibito comprare dei coltelli che hanno la lama a doppio taglio. Però si può comprare tranquillamente un macete, io ho addirittura in caso dei Kukri, che sono i coltelli nepalesi, quelli ricurvi. Sì. Si possono comprare tranquillamente. Ma io nelle vetrine vedo pugnali tattici da guerra, vedo il coltello di Rambo, vendono di tutto. Sì, quelli si possono usare purché non abbiano il doppio taglio. O se hanno il doppio taglio ci vuole il portadarmi per portarli in giro. Ma che differenza fa? Scusi, per capire, ammazza lo stesso un coltello, cioè un pugnale è un pugnale? Sì, lo so, però quelli col doppio taglio c'è questa legge che... Beh, una legge abbastanza stupida, perché un coltello ferisce, offende, un pugnale affilato, anche se non ha il doppio taglio, fa lo stesso il suo mestiere. Cioè il coltello da macellaio non ha il doppio taglio, un coltello doppio taglio. Guarda, in casa basta una mannaia da macellaio, due mannaie da macellaio e fai un macello. Lei ha mai girato con il coltello in tasca? Per sicurezza? No, io in giro, vado di solito in giro in bici. Non porto armi perché non sono stupido, non voglio incorrere in guai, però si può avere qualche arma impropria. La catena della bicicletta, cioè. La catena della bicicletta. Immaginavo, la pompa al limite. Chi di pompa ferisce, di pompa ferisce. Un lucchetto. Vabbè, il lucchettone, vabbè, ho capito, vabbè, che per difendere. Quello in due secondi, anche se affrontano col coltello lo abbatti, quello col coltello non si affronta, si deve abbattere. Si deve abbattere, l'esperto diciamo di armi che ha lavorato nei corpi speciali dice in realtà se c'è davanti un uomo col coltello è meglio che scappi. Francesco, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Senta, io sono del parere, premetto che comunque io sono contrario alla violenza. Premetto anche un'altra cosa, io ho fatto arti marziali full contact, che si usava all'epoca di tanti anni fa. Andava di moda, sì, anni 80. Andava di moda, per cui io sono cintura nera di full contact. Ciò non toglie che io sono sempre contro alla violenza, non sono mai quello che attacca brighe. E quindi? Perché questo mi ha insegnato al controllo, non a essere aggressivo. Sì, ma se vede uno con un coltello che le viene incontro. Ecco, se vedo uno con un coltello. coltello le garantisco che mi può anche ammazzare, però sicuramente l'autocontrollo mi porta a difendermi rispetto a una persona che, poverina, si spaventa solo alla vista del coltello, giusto? Però volevo dire anche questo, l'ho già detto al suo collega prima, io in macchina tengo qualcosa che comunque sicuramente terrebbe, farebbe paura a uno col coltello. E cos'è? Qualcosa di trattasi di un tubolare con delle lame in punta, con un bracciolo in modo da rimanere sempre attaccato alla mia mano. No, come lo spiego, questa la voglio capire, un tubolare con le lame in punta, non basta, scusi, ci sono dei blocca sterzo, sì, se mandi delle mazze da baseball. No, vabbè, ho capito, però io... Ma com'è il tubolare? Chi l'ha costruito questo tubolare? Io l'ho fatto. E cos'è, un tubo? È un tubo? Un tubo in acciaio inossidabile, da 3 mm con tanto di lame, sempre in acciaio, affilatissime. E quante lame c'ha? Come? Quante lame? 3, 6, 9, 12 lame. Il tubo dalle 12 lame, ma scusi, ma ci ha studiato la notte. No, è assurdo, però è maneggevolissimo, nel senso e che poi c'è un'impugnatura, lo puoi far girare come vai. Un'impugnatura. L'impugnatura in pelle col manico, con l'accetto che ti rimane al polso, da non perdere. Però scusi, ma se la ferma a un posto di blocco polizia, come giustifica l'uso di staffa? Guardi, io so già a priori che vado nei guai, però lei capisce che col problema che va in giro a uno perché gli suoni, perché giustamente ti sta quasi procurando un incidente, gli suoni, questo scende e ti dà una coltellata, visto che... Lei tira fuori il tubo del 12 lame, scusi, se ma... Se permette io mi difendo, preferisco dopo spiegare perché io... Per fortuna lei non era aggressivo, scusi. Ma io non sono aggressivo, no. Ho fatto 8 anni di full contact, non per... Ma allora che ci fa col tubo dalle 12 lame? Se allora non ci siamo capiti, senta, lei mi fa dire sempre le stesse cose. No. Io preferisco essere nella posizione che mi possa... Il signore di prima, giustamente, diceva che qualsiasi cosa può essere a portata di mano se uno la sa usare. Sì, provi, ecco. Scusi, sì, nel linguaggio... giudiziario, si chiama arma elaborata la sua, certo, la sua certo, è un'arma elaborata, certo, cioè certo. C'è una volontà a priori di avere un'arma letale che faccia il male. Allora scusi, chi porta il coltello a sua volta lo stesso, solo che la differenza è un'arma, che io è un'arma. Mi so controllare, nel senso che io l'ho già detto prima, io vado in giro, se qualcuno mi rompe le scatole, diciamo la parolaccia, io mi sfogo magari. Vabbè, Francesco, molto bello perché vario. Io penso che se una persona comunque tiene in macchina un oggetto che pensa che in condizioni disperate possa servirgli a salvargli la vita, c'ha un blocca sterzo, può averci mille cose, può averci un martello da carpentiere. Guardi che anche una birra, se saperlo usare, ho capito, usarla, sì, ammazza la persona. Ma costruirsi il tubo dalle 12 lame con l'impugnatura in collo ci vuole veramente di studiarci sopra. No, comunque... e guardi che purtroppo l'esperienza ti porta a capire che se tu vai in giro anche con l'aureola in testa e trovi, scusi il termine, il bastardo, sì, che assolutamente non ne vuol sapere, sì, di discutere, tante volte sei costretto a... Però scusi, l'ultima cosa, Francesco, ma non c'è pericolo con questo tubo in tutte ste lame che usandolo magari si fa male anche lei? Non so, perché no, 12 sono no, tante. Allora, come il signore di prima ha detto che impugnava quella specie di spada cinese, tiracazzotti con la lama, giustamente va a rischio anche lui se non lo sa usare, ha capito? Ah, quindi lei studia. Il discorso, guardi, mi lasci finire per favore, il discorso, quello di aver fatto tanti anni una certa preparazione, non solo atletica ma anche mentale, mi porta sì che io prima di utilizzare quell'arma, e prima comunque di fare avvicinare una persona, perché il concetto è proprio questo, tu mai fare avvicinare una persona. Grazie, io vedo uno col tubo a 12 lame, non mi avvicino ma scappo via. Quello guardi, basta, perfetto, per quello vede che già abbiamo risolto, cioè, il problema, dico, è un pazzo, lo rimetto via e amici come prima. Ma c'è una custodia? Ha una custodia? Ma più che una custodia c'è una posizione dove tenerlo in modo che non dà fastidio e così. Beh, vorrei vedere, un po' ingombrante. Vabbè, spero non sul sedile. La saluto, a tra poco, ci sentiamo. 800 24 00 24. Avete visto? Abbiamo colto nel segno. La lama è quanto mai presente anche nel nostro immaginario nazionale. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Ciao, sono Enrico Luzzolli e in questo video voglio parlarti del coltello nella difesa personale. Lo faccio perché mi sono accorto che negli ultimi anni YouTube, Facebook sono stati infestati di una serie di video non adatti alla difesa personale. Non voglio dire che siano tecniche inutili o che non abbiano alcun senso. Per esempio, se tu e i tuoi amici state cercando di ricreare una coreografia, per esempio per un film stile B-movie anni 80, avere il coltello, che ne so, puntato alla gola, puntato in pancia, e poi fare magari la scena che mi libero senza tagliarmi, eccetera, ci può stare. Ma questa cosa qui, quella dell'arma puntata da fermi, del coltello vicino all'avversario, sono delle cavolate stratosferiche. Nella realtà queste cose non succedono mai, ok? Hanno l'incidenza statistica di questo una persona. Questo è uno dei tanti tutorial, forse uno dei più saggi, che si trovano su YouTube, su come si usi il coltello. A parlare Enrico Luciolli, che da 20 anni pratica arti marziali, da 15 è insegnante specializzato nella difesa personale, ha scritto un libro, La difesa personale non funziona se non sai come allenarla, che è il libro più venduto sul tema della difesa personale. Trovate un sito www.inwarrior.it e Enrico Luciolli lo abbiamo al telefono. Buongiorno. Buongiorno Gianluca, grazie per la possibilità di parlare, insomma, di questo argomento che è davvero molto delicato e che le persone tendono a fraintendere. Le è bastato ascoltare i primi due ascoltatori? Casualmente hanno chiamato, sì, subito. Sì, sì. Mi dica la sua impressione da persona moderata e esperto alla materia sulle due telefonate. Allora, io sono dell'idea che girare armati sia sempre sbagliato, nel senso che poi quando si ha un'arma a disposizione si prendono delle decisioni sbagliate, perché ci si sente sicuri nella maniera non corretta. Come diceva il signore di prima, io ho il bastone con le 12 lame, quindi scendo dalla macchina perché penso di voler dimostrare all'altro la mia superiorità, quantomeno perché ho a disposizione quest'arma, ma nulla vieta che l'altro abbia una pistola e gli spari in testa. Quindi secondo me ogni situazione di possibile pericolo andrebbe affrontata prima di tutto. Io ancora ho molte perplessità sul bastone a 12 lame, mi sembra una cosa che da film, sì, da B-movie anni 70, esatto, non lo so, esatto. Però se l'hai costruito, io ci credo che l'abbia costruito. No, ma è pieno di persone che girano armate. Io non sono dell'idea che sia la scelta giusta. Nel senso che al limite l'unica arma che secondo me ha senso portare con sé potrebbe essere una pistola e peperoncino spray. Perché? Perché è un'arma legale e quindi nel momento in cui mi difendo poi non incorro in tutte quelle che sono le problematiche del sistema giudiziario, perché poi insomma quando ci si difende si viene indagati, come giusto che sia, per capire se davvero c'era un pericolo, se era davvero una situazione di difesa personale. E quando si interviene con un'arma che non è un'arma consentita dall'ordinamento, ovviamente si finisce nei guai. Quindi è meglio sempre comprarla omologata, comunque, nei negozi, sì, omologati, non dai cinesi. La legge prevede proprio delle proporzioni esatte, devono essere omologate. Ci sono alcune aziende che si occupano proprio di vendere questi prodotti e sono dei prodotti che sono un valido aiuto. Ma allora adesso le faccio una domanda che chiunque la farebbe. Lo spray al peperoncino contro il coltello fa qualcosa? Può essere una delle maniere, diciamo, per... non dico cautelarsi, ma per stare più sicuri che se esce tra la folla uno armato con il lungo coltello, perlomeno puoi fare qualcosa. A parte lei che è un esperto di difesa, ha scritto libri e tutte, una persona normale, inerme, questa mattina ci ascolta e dice: da oggi io me la faccio sotto dalla paura che qualcuno mi assalga per strada con il coltello. Vuoi terrorista, vuoi ragazzino pariolino della Roma Bene, vuoi infermiera pazza, quello che vuoi. Dico, lei cosa consiglierebbe di fare? Ma innanzitutto consiglierei di dileguarsi alla velocità della luce, nel senso che il coltello offre un vantaggio enorme a chi lo possiede, soprattutto se questa persona lo sa anche in minima parte utilizzare. È un vantaggio che è difficilissimo recuperare solo con la mano nuda, quindi le opzioni più intelligenti da fare sono quelle di creare un diversivo, magari lanciando un oggetto, magari usando la pistola e il peperoncino, magari lanciando, che ne so, la giacca contro la persona che abbiamo di fronte, frapponendo un oggetto tra noi e l'aggressore, che ne so, una sedia, un tavolo, usare un estintore e cercare di allontanarsi il prima possibile. Perché a meno di non avere un livello stratosferico di preparazione, affrontare il coltello a mani nude è qualcosa di impensabile. Le do proprio il quadro estremo, un episodio come quello di Londra, contro una macchina in corsa non c'è nulla da fare se non sperare di non andare nella traiettoria, ma se improvvisamente in una piazza, in una strada, apparissero delle persone con dei coltelli, cominciassero a tagliuzzare e accoltellare la gente per strada, qual è la cosa preferibile da fare in quel momento? Lo vediamo a distanza e capiamo di essere noi un possibile bersaglio. Cosa facciamo? Essere in forma per correre più veloce dell'aggressore, perché o abbiamo, ripeto, un livello molto alto, oppure siamo dotati di armi in grado di neutralizzare l'avversario, ma queste ce l'hanno a disposizione solo le forze dell'ordine, oppure dobbiamo cercare di dileguarci, perché difficilmente riusciremo a contrastare una persona che è disposta a morire in quel momento. Questa è una cosa molto importante che vorrei proprio sottolineare, perché mi rendo conto, lavorando con le persone che si avvicinano alle arti marziali, che è una cosa che non hanno in mente, perché le persone hanno visto i film e si immaginano che esista la tecnica segreta, che esiste quel movimento, quel punto di pressione da toccare, quel, non so, quel trucco, quel segreto che permette anche al più sfigato degli sfigati di fare fuori Rambo. Non è così, purtroppo. Una persona che è preparata e che vuole uccidere l'altro ha un vantaggio enorme, quantomeno di natura psicologica ed emotiva. E un esempio lo possono vedere, per esempio, gli ascoltatori andando su YouTube e guardando, per esempio, il nostro video che abbiamo fatto sulla pistola e il peperoncino, dove sparando contro una persona determinata ed addestrata, questa riesce a venire avanti e a tirare una selva di colpi. Ecco, questo è un altro dei problemi che le avrei posto. Lo spray al peperoncino, se l'avversario è grosso, determinato e soprattutto ha un'alta soglia di resistenza al dolore, si incazza ancora di più e fa ancora peggio il suo lavoro. Allora, diciamo così, lo spray al peperoncino nell'arco dei 20 secondi diventa veramente, veramente efficace. Però, come è giusto che sia, dato che è un'arma di libera vendita, non è in grado di uccidere una persona istantaneamente. A dire il vero, molto spesso ci sono tantissimi video della polizia, di testimonianze delle forze dell'ordine, che anche sparando una persona, questa magari viene avanti ancora, se un po' di droga in corpo, o comunque se il colpo non è in grado di freddarla all'istante. E quindi è naturale capire che non basta solo avere l'arma, l'arma è uno strumento che amplifica la mia possibilità di avere successo. Quello che devo fare io è essere sufficientemente in forma, sufficientemente addestrato per poter evitare gli attacchi dell'altro fin tanto che l'arma, diciamo, fin tanto che il peperoncino non riesce a mettere completamente fuori uso l'arma. Beh, questo nel caso che uno ha il peperoncino, ma ritorniamo all'episodio, all'esempio di prima. Siamo nella folla, stiamo passeggiando, una serata tranquilla come era appunto a Londra l'altra sera. Certo. Improvvisamente si capisce c'è un pericolo, cominciamo a vedersi a distanza le persone col coltello che corrono tra la folla e accoltellano chi capita. A quel punto, se noi siamo il bersaglio, abbiamo una certa distanza, oltre che a scappare, non ci abbiamo proprio vicino, capiamo che sta per arrivare, c'è altro che possiamo fare? Sicuramente creare un diversivo, usare un oggetto, usare qualsiasi cosa che sia in grado di rallentare l'azione dell'altro, perché una cosa giusta l'ha detta il signore di prima, cioè che una persona armata di coltello va fatta fuori, specialmente un terrorista che comunque di lì a poco sarà ucciso. E anche le forze dell'ordine, quando intervengono per fermarli, cosa fanno? Gli sparano. Ma non è che si mettono a parlare. Il loro scopo ultimo è di morire durante questo attacco. Quindi è l'avversario peggiore, l'avversario che non ha paura della morte. Assolutamente. Non puoi fargli nulla. È per questo che l'unica speranza che c'è è quella di riuscire ad andarsene e dare spazio alle forze dell'ordine che intervengano, che comunque ho visto. Cioè, nella speranza che lui, fra tanti. Io ho notato, mi sembra aver capito, che fra tanti bersagli, il terrorista armato di coltello che deve fare una strage simbolica sceglie più inermi, sceglie le donne, certo, i bambini. Quindi logicamente chi vede fare un po' di resistenza, è triste dirlo perché dice ti salvi te ma accoltella un altro, ma se io comunque do l'impressione di voler reagire, girerà subito e andrà sull'avversario più inerme accanto a lui. Certo. È un'equazione spietata e crudele, ma è così. Sicuramente, come si è spiegato anche nel libro, ci sono stati fatti tantissimi test psicologici sugli aggressori, si è visto che alla fine rispettano sempre gli stessi meccanismi dei predatori, come dire il leone attacca la gazzella più debole, e involontariamente le persone tendono sempre a cercare come avversario una persona che credono di poter sottomettere facilmente. Pensiamo al bullismo, una cosa su tutte, cioè è quello più grosso che attacca quello più piccolo, e nelle dinamiche molto istintive subentrano delle cose del genere. Quindi anche probabilmente in una situazione disperata come quella di un terrorista che cerca di uccidere quante più persone possibili, probabilmente la sua forza viene indirizzata verso soggetti più deboli. Ora, se una persona ha le capacità per provare a intervenire oppure desidera salvare un soggetto più debole, questa è comunque un'opzione, nel senso, io vedessi dall'altra parte, che ne so, una bambina che sta rischiando la vita, non scapperei, proverei a prendere, certo, un oggetto e a fare il possibile per mettere fuori uso l'altro. Però nel momento in cui faccio una scelta del genere sono consapevole che nonostante abbia 23 anni di addestramento, mi alleni tutti i giorni, rischia la sua vita. Ma assolutamente sì, non esiste un addestramento che ti può garantire di essere efficace. Sì, solo nei film di Chuck Norris, esatto, e company. Aumenti le possibilità, ma è come, diciamo, è come giocare in borsa, cioè magari hai un po' di informazioni che ti garantiscono di probabilmente avere successo, ma la certezza totale non ce l'hai finora. Ci fermiamo solo un istante, vedo che i suoi consigli sono pratici, diretti e soprattutto tolgono anche illusioni, ma allo stesso tempo danno una visione il più lucida possibile di una circostanza a rischio che potrebbe comunque, uno si augura mai, far parte delle nostre esperienze quotidiane. A tra poco. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24. Questa mattina abbiamo revocato, concretizzato, riportato in luce e allucinato quello che è l'incubo del coltello. L'incubo o la sicurezza? Il mito o la terrificante eventualità di trovarsene uno davanti? E lo facciamo con i nostri ascoltatori, con alcune persone esperte. Matteo, buongiorno. Buongiorno, salve. Io ho avuto una bruttissima esperienza per un banale alterco in auto, come ne succedono moltissimi. Nel momento in cui sono sceso dalla macchina per discutere comunque con l'altra persona, è scesa con un coltello di una decina di centimetri e ha iniziato a gridare e corrermi dietro, diciamo. E l'altro automobilista? 50 anni, l'altro automobilista ha cominciato a corrermi dietro con questo coltello veramente grande. L'hai scappato? E ho cominciato a correre intorno all'auto, intorno alle due auto. E c'erano anche parecchie persone che passavano in macchina, perché eravamo in una zona di vacanza sul altopiano di Asiago, quindi sì, c'erano persone che passavano e ci ignoravano praticamente, anche se le auto occupavano una carreggiata della strada che si erano incidentate. Ecco, altra cosa, poi me lo confermerà Enrico Luciolli: non contiamo mai troppo sull'aiuto degli altri. In questo caso un signore inseguito da uno col coltello che lo minacciava, e gli altri si fanno i fatti loro. Enrico Luciolli, ricordo, esperto in arti marziali e autore di un libro sulla difesa personale. Questo ascoltatore aveva altre possibilità di sfuggire a questo signore che lo inseguiva col coltello? Se fosse riuscito a entrare in macchina e chiudersi dentro, magari quella era un'opportunità, nel senso che comunque la macchina offre una barriera iniziale all'altro e poi anche la possibilità di andarsene. In una situazione del genere, non avendo esperienza, non sapendo come interagire con l'avversario, questo è molto difficile. Tuttavia va anche detto che si può tentare una strategia di de-escalation verbale, cioè si può provare a vedere se si riesce un po' a calmare l'altro, e questa cosa mantenendo le dovute distanze, come faceva il signore, cioè girandogli intorno, usando proprio la macchina, diciamo, come ostacolo tra lui e il pazzo armato di coltello, è qualcosa che si può tentare nella misura in cui... Com'è finita, Matteo? Com'è finita la storia? Niente, è finita che poi io a un certo punto ho smesso di correre intorno alle macchine e sono scappato in una direzione opposta, quindi mi sono allontanato e lui si è sfogato con la macchina, nel senso che ha bucato tutte e quattro le gomme e ha fatto per partire. Lì ci siamo accorti che una signora, fortunatamente una, aveva chiamato i carabinieri e sono arrivati quasi contemporaneamente. Però lì è andato avanti un processo di 4 anni a cui il signore non è stato fatto praticamente nulla, anzi addirittura la sera era già fuori, dopo che ci hanno tenuto in questura tutta la sera. Questo mi ha stupito molto, perché se io esco con un coltello, credo, in macchina, poi era più dei 4 centimetri o quello che è, quindi era comunque un'arma abbastanza... Vabbè, comunque adesso l'aspetto giudiziario è importante, però in questo caso non fondamentale. Importante, noi stiamo parlando di come mettersi il più possibile in sicurezza di fronte a una persona armata di coltello. In questo caso è una situazione che rientra nel nostro tran tran quotidiano, non c'è terrorismo, ma l'automobilista apparentemente inerme, l'uomo qualunque, l'uomo della strada, il padre di famiglia, la brava persona che tutti dicono ma è impossibile, ecco, esce con un coltello e diventa pericoloso, ma può diventarlo un terrorista sul ponte di Londra. Luca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, effettivamente sì, riscontro tutto, sono completamente d'accordo anche col signor Enrico. Di fondo il ragionamento del legislatore sul discorso della doppia lama che sentivo prima dell'altro intervento. Quando si offende con una lama singola si causa un'offesa fisica e anche delle lesioni, quando si offende con una lama doppia o segmentata si asportano e si recidono più terminazioni nervose, più tessuto, e quindi si causa maggior danno. Purtroppo sempre di più la persona, l'uomo comune, è intento a proteggersi. Lei è un medico, ci fa questa spiegazione? No, ho fatto studi. Ha studiato anatomia. Allora, vediamo, ci risolviamo subito il problema. Loredana Lorenzi, buongiorno. No, il marito al telefono. Amministratore. Ecco, Gianni Campolin, scusate, sì, esatto. Gianni Campolin, sì. Ma ho dato il nome, che penso che sia sua madre, era? No, era mia moglie. Sua moglie, ecco, sì. Abbiamo il marito invece la moglie. Allora, Gianni Campolin è diciamo, un componente della famiglia che da anni fabbrica coltelli in Italia, la coltelleria, sì. Campolin. Ecco, spiega innanzitutto, voi fabbricate coltelli di tutti i tipi, anche quelli a scatto? Noi avevamo cominciato tanti anni fa con coltelli a scatto. E lavoravamo gran parte per gli Stati Uniti. Quelli che si pigia il pulsante e esce la lama? Sì, che tra l'altro in Italia sono proibiti adesso. Poi li vendevano, io quando ero ragazzo si vendevano normalmente, andava in coltelleria e si comprava. Sì, poi è venuto fuori una nuova legislazione e li hanno proibiti. Ma quello è il coltello, quello serve solo a tirar fuori le budella, non c'è altro uso quel coltello. Sì, quello sì. Perché all'inizio c'è anche la punta doppia affilata, affilata tutte, da tutte e due le parti. Taglio, baionetta, detta baionetta. E voi li esportavate negli Stati Uniti? Non si esportano più da tantissimi anni perché sono proibiti. Non si usano più da nessuna parte? No, non si usano più, noi non li facciamo più, facciamo solo coltelli a serramanico. Ma questi coltelli, diciamo, a doppia affilatura, sì, a cosa si usano? Per cosa sono questi proibiti, diciamo? Guardi, i coltelli, io ho avuto un'esperienza, che tra l'altro O.J. Simpson, non so se si ricorda. Sì. Aveva ucciso la moglie con un coltello a scatto. Sì. No? Ed era con la lama a baionetta. Purtroppo non è niente vero, perché quel coltello a scatto lì non poteva decapitare una persona. Perché non è affilato, dirle, la lama troppo fina. Non erano solo affilati, addirittura i coltelli a baionetta che si facevano una volta, non si facevano per il mercato americano, erano per bellezza. Più che altro, le spiego subito, i grandi attori tipo James Dean in Gioventù bruciata, sì, e Marlon Brando in Fronte del Porto e tanti altri, e tutti i film di mafia usavano questo coltello a scatto qua. Dopo, negli anni 70, è stato proibito, per cui non si fa più, però in realtà era solo lo scatto proibito. Di offesa, non era un coltello tagliente. Tra l'altro era anche un coltello poco stabile, era un po', non era che era un gran coltello. Era un coltello anche molto leggero, no? Perché per cui la molla non era neanche temperata, per cui se lei sforzava, saltava il tutto. C'aveva un coltello da scena, per far paura, da che scena, esce fuori la lama. Coltello da scena. Era come la navaca spagnola che fa quel rumore, che c'è una cremagliera, ecco, per spaventare, ecco, di più. Ecco, era una roba del genere. Ecco, oggi qual è il coltello che si può acquistare lecitamente? Coltello Guardi, da caccia? La legge italiana è poco chiara, non si capisce di preciso. Di solito il coltello si vende normalmente il coltello serramanico o il coltello da caccia adesso, che usano i cacciatori, che usano i... Ma le vetrine sono piene di coltelli, penso. Sì, che... ma non c'è una legge chiara, mi capisce? L'unica roba che è proibito è il coltello a scatto. Va bene, quindi diciamo che oggi tranquillamente, ci dice il rappresentante delle Colterie Campolin, che sì, fabbricano coltelli da un'infinità di anni, che oggi in realtà il coltello è liberamente, non c'è una legislazione. Però alla stessa maniera, Enrico Lucioli, chiudo con lei, abbiamo capito che non serve andare a comprare un coltello se si vuole fare del male a una persona, il coltello si compra nella bancarella. Purtroppo sì, sono armi di facile reperimento, anche perché insomma un coltello può essere usato anche per ragioni diverse da quelle che sono, che ne so, aggredire una persona. Lo posso prendere per collezionismo, ci sono persone magari che sono fan di un determinato film e vogliono il coltello che aveva Rambo in quel film, però non è detto che poi venga usato davvero per aggredire. Fatto sta che comunque oggi ce ne sono parecchie in giro, ci sono molte culture che arrivano oggi in Italia che portano con sé delle lame perché tradizionalmente e religiosamente le hanno con loro. Sì, noi abbiamo fatto una trasmissione con i Sikh che volevano portare il loro coltello rituale, abbiamo capito che o se lo portano finto di gomma o se no il coltello rituale, e se lo devono dimenticare, perché non mi sembra proprio aria per portarsi coltelli al fianco lecitamente. Alla prossima.